nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E allora, buongiorno a tutti, bentrovati a Due di Denari. In realtà oggi è solamente una di denari, perché casualmente capita molto più spesso il contrario. Per la verità, oggi sono da sola, lasciamo Mauro Meazza a casa con il suo intervento ai denti, possiamo dirlo. Vado a violare la privacy appunto di quello che è successo a Mauro, ma in realtà abbiamo preannunciato questa sua assenza già da diversi giorni, scherzandoci un po' su. Ieri dicevamo che sapevamo benissimo che oggi si sarebbe ammalato, ma tornerà prestissimo tra di noi. Io lo saluto anzi con affetto, torna presto, perché già ci manchi, anche se manchi da qua da pochissimo. Allora, di che cosa parleremo intanto in questa ultima puntata di Due di Denari della settimana? Torneremo sulla vicenda della quale si sta parlando più di tutte nelle ultime ore. È la tematica che campeggia oggi sulle prime pagine di tutti i giornali, e quindi faremo ancora una volta anche noi, dal nostro punto di vista, il punto della situazione sulle questioni bancarie aperte, visto che anche questo Natale si sta caratterizzando per il dibattito molto acceso sulla situazione delle banche italiane, soprattutto sulla situazione di coloro che, a causa dei crack bancari negli ultimi anni, hanno perso gran parte dei loro risparmi. Per cui lasceremo da parte tutta la querela politica tra il commissario, tra il presidente della Consob Vegas, la ministra Boschi, anche se a me ministra non piace dirlo, ma in questo caso appunto viene identificata quasi sempre solo in questa maniera. Parleremo appunto pagamenti elettronici, perché tra l'altro in questi giorni, e adesso ve lo racconteremo nel dettaglio, si è anche conclusa la cosiddetta migrazione di tutti i clienti, degli ex clienti della Popolare di Vicenza di Veneto Banca presso Banca Intesa. C'è ancora però qualche strascico un po' problematico per qualche cliente di queste banche, che non hanno perfezionato appunto in maniera definitiva l'operazione. Ci faremo raccontare che cosa sta succedendo, soprattutto un po' di commercianti del Veneto che sono alle prese appunto con l'esito di questa migrazione. Poi parleremo anche di Bancomat e carte di credito, perché negli ultimi giorni, con un provvedimento del governo, è arrivata anche una iniziativa legislativa attraverso la quale si riducono le commissioni interbancarie sui pagamenti elettronici come Bancomat e carte di credito. Però naturalmente c'è ancora qualche cosa che manca, perché il tutto si riconduce all'annoso tema dell'obbligatorietà dell'utilizzo dei POS all'interno degli esercizi commerciali, che però del quale si parla da tempo appunto, ma che pure lo stesso ancora non è una realtà nel nostro paese. E insomma, tanti argomenti in questa puntata così ricca del venerdì, che si concluderà come sempre anche con C'è imposta per te, che Mauro mi ha lasciato. Allora, siccome le cose da dire sono tante, direi di partire subito, ma vi ricordo naturalmente che potete intervenire in diretta all'800 24 0024, ci potete scrivere al 349 238 6666. Se riceviamo come sempre i vostri messaggi con WhatsApp, siamo in diretta live su Facebook, per cui salutiamo anche gli ascoltatori che ci stanno seguendo attraverso il video. Ci potete scrivere a duedidenari@radio24.it. La lista della spesa Andrea l'ho fatta, direi che adesso possiamo partire. Sì, ho avuto modo di parlare della questione di Banca Etruria con l'allora ministro Boschi. Mi venne prospettato un quadro di preoccupazione, perché ad avviso del ministro ci poteva essere l'eventualità che Banca Etruria fosse in qualche modo incorporata da da Banca di Vicenza, e questo sarebbe potuto essere di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è quella dell'oro. Non è che c'è stata nessuna pressione, niente, semplicemente è stata l'esposizione di una situazione di fatto, punto. Allora, per chi se lo fosse perso, abbiamo riascoltato per l'ennesima volta, dopo che già ieri i telegiornali, anche i nostri radiogiornali praticamente, hanno dedicato questo intervento del presidente della Consob a Vegas alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche praticamente senza sosta. Tutti ne hanno parlato, abbiamo riproposto questo intervento anche noi, perché appunto prosegue senza sosta in attesa di definire qualche conclusione concreta prima che Mattarella sciolga le camere per indire le nuove elezioni politiche, l'attività della commissione d'inchiesta sulle banche, con la commissione che dovrebbe portare a capire tutti gli italiani il perché è finita, come è finita la storia delle quattro banche risolte nel novembre del 2015, e perché è finita così malamente anche la storia di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Come dicevo prima, peraltro, ricordiamo che proprio in questi giorni è stata ultimata la migrazione dei dati relativi a 2 milioni e 200 mila correntisti di Pop Vicenza e Veneto Banca, ci sono anche circa 200.000 imprese che ora sono diventate a tutti gli effetti clienti del gruppo Intesa San Paolo, che ricordiamo in giugno ha acquisito le due banche in liquidazione. In più, sempre in questi giorni dovrebbero essere arrivati anche i rimborsi a circa 16.000 obbligazionisti di Banca Etruria, Cari Ferrara, Banca Marche e Cari Chieti, che avevano chiesto l'indennizzo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che ricordiamolo è l'organismo finanziato dalle banche, individuato dal governo per risarcire i piccoli risparmiatori che appunto hanno sottoscritto obbligazioni subordinate che sono state azzerate, determinando la perdita di tutti i risparmi per molte famiglie. La commissione d'inchiesta sulle banche settimana scorsa ha sentito anche una persona che noi conosciamo molto bene. È una persona intanto esperta di queste tematiche ed è anche considerata appunto un'esperta da Plus 24 del Sole 24 Ore, che la interpella molto spesso sulle questioni del risparmio tradito. Abbiamo voluto sentirla anche noi questa mattina. Ringraziamo l'avvocato Letizia Vescovini di Modena, che torna a trovarci. Intanto benvenuta e buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito, è sempre un piacere. Grazie avvocato Vescovini. Allora, ci racconta un po' il dietro le quinte, perché lei è stata interpellata da Pier Ferdinando Casini, che presiede la commissione inchiesta sulle banche. Quindi a che titolo, che cosa le è stato chiesto, anche se in realtà queste audizioni vanno in streaming e quindi è possibile seguirle, ma magari per chi se la fosse persa la sua. Ci racconta che cosa le hanno chiesto, che cosa volevano sapere da lei? Allora, diciamo che sono andati piuttosto sul concreto, nel senso che essendo un avvocato mi hanno chiesto dal mio punto di vista cosa ho potuto percepire su quanto è accaduto nella vendita di questi prodotti, quindi azioni e obbligazioni subordinate, il rapporto diretto che ci poteva essere tra la banca e il cliente, che cosa veniva detto o non detto per riuscire a vendere questi prodotti che spesso non erano in linea con il profilo di rischio del risparmiatore. Diciamo che l'esperienza sul campo nel curare sia le procedure di arbitrato ANAC sia i ricorsi alla CF mi aveva permesso di poter ascoltare diverse persone che mi hanno raccontato la loro visione della vicenda, che ha trovato anche poi conferma nella documentazione che ci è stata inviata dalla banca. Una sorta di perito tecnico, diciamo, della vicenda. E quindi ho messo in evidenza tutta questa attività di mis-selling, il fatto che venissero cambiati i profili di rischio appena prima della vendita delle obbligazioni subordinate, o qualche volta in occasione dell'acquisto di azioni per avere le condizioni agevolate sui conti correnti o sui mutui. O per avere un mutuo, un prestito, sì. Ecco, tante volte si approfittava di questo momento in cui il risparmiatore, acquistando una piccola quantità di azioni, non riteneva ci fosse nulla di pericoloso e quindi era disposto magari anche a sottoscrivere una profilatura MiFID che non aveva attentamente valutato, avendo poi questo profilo alto, questo permetteva di poter vendere in un secondo tempo obbligazioni subordinate. Allora, quindi una situazione ancora piuttosto complessa. Avvocato Vescovini, che appunto, come ci raccontava, è stata sentita anche dalla commissione d'inchiesta sulle banche in qualità di tecnico, ma anche in qualità avvocato di molte persone che sono rimaste coinvolte, no? In queste situazioni. Sì. Quindi non è stata interpellata casualmente solo perché è capitato che il Sole la sentisse come esperta di queste vicende, ma anche perché direttamente sta seguendo come legale direttamente molte di queste situazioni. Allora, andiamo alla situazione degli ex obbligazionisti, delle quattro banche risolte nel novembre del 2015 e delle banche teoricamente risolte in tempi più recenti, le due venete, per capire a che punto sono gli indennizzi per questi risparmiatori, perché sono state avviate, come ricorderete, molte iniziative di ristoro, anche se non totale ma parziale, ma comunque abbondante, è andata anche bene, direi, come è andata, anche se poi la trafila è stata piuttosto complicata, perché tutte le persone che hanno avuto diritto a questi risarcimenti dovevano naturalmente avere determinati requisiti in termini reddituali e non solo, però insomma molti rimborsi ci sono stati. Proprio in questi giorni stanno avvenendo molte liquidazioni delle pratiche appunto di questi risparmiatori. Al 4 dicembre scorso, quindi a qualche giorno fa, le pratiche liquidate dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi erano circa 14.200, per un ammontare complessivo di circa 160 milioni di euro. A queste persone che hanno chiesto il rimborso al Fondo Interbancario è stato rimborsato circa l'80% del valore di ciò che si era investito in obbligazioni, ribadisco, subordinate. Tutto ciò non riguarda gli ex azionisti di queste banche. Ho letto anche da qualche parte, avvocato Vescovini, che la maggior parte delle richieste era per importi inferiori ai 10.000 euro, quindi diciamo che al momento sono stati indennizzati proprio piccoli, piccolissimi risparmiatori. Risulta anche a lei questa circostanza? Sì, prevalentemente erano importi non elevati, poi in alcune occasioni c'erano anche importi di tutto rispetto, proprio perché nella seconda fase, quindi fino a maggio, era possibile che venissero presentate le istanze di indennizzo senza tener conto del valore effettivo del titolo azzerato, cioè non andava a interferire sulle condizioni dei 35.000 euro o sui 100.000 di patrimonio immobiliare in sostanza, e quindi nella seconda tranche è stato possibile per chi aveva investimenti rilevanti anche in solo obbligazioni subordinate presentare l'istanza. Per quello che ho potuto vedere io, quelli che hanno presentato l'istanza entro il 31-12 sono stati tutti liquidati. Il fondo mi ha detto che con ogni probabilità entro la fine dell'anno dovrebbero riuscire a pagare anche i soggetti che hanno presentato l'istanza dopo la riapertura di maggio, quando erano stati allargati i parametri anche ai successori inter vivos nel rapporto, certo. Diciamo. Pur nell'allargamento di questi parametri, però ancora non tutti i risparmiatori stavano dentro al diritto di essere risarciti secondo quanto stabilito da questa norma che ha dato la facoltà di aderire all'iniziativa del Fondo Interbancario di tutela dei depositi, perché molti hanno dovuto invece aspettare l'istituzione di questo collegio arbitrale appunto avviato presso l'autorità anticorruzione. Quindi per questo gruppo invece di risparmiatori, avvocato Vescovini, la situazione qual è? Per questo gruppo i termini sono scaduti l'11 di novembre, quindi entro quella data era necessario presentare l'istanza con tutta la documentazione allegata. Il 19 dicembre, quindi martedì della prossima settimana, inizierà l'esame delle posizioni da parte dell'arbitro ANAC, quindi verremo finalmente a sapere come deciderà, sulla base di quali presupposti verranno riconosciuti i risarcimenti, anche perché nel regolamento si faceva riferimento ad un criterio di congruità del risarcimento che non necessariamente coincide con l'effettivo valore della perdita, quindi staremo a vedere. Esatto. In tutto questo c'è stata anche una novità recente che è stata inserita in legge di bilancio, cioè la possibilità che si costituisse un ulteriore fondo da 50 milioni di euro per completare questi risarcimenti, no? Avvocato Vescovini, che fine ha fatto? Perché quello in realtà era un provvedimento che aveva pensato ad un ulteriore requisito particolarmente restrittivo, cioè risarcire tutte quelle persone che però potessero portare in dote una sentenza passata in giudicato. Ci spiega meglio questo passaggio, che in realtà poi proprio anche dai legali che seguono le vicende di questi risparmiatori è stato un po' contestato. Lei in primo luogo lo ha fatto. Sì, devo dire che in commissione ho fatto presente anche l'inadeguatezza sia della somma messa a disposizione sia di questo criterio della sentenza passata in giudicato, perché una sentenza passata in giudicato per i non addetti significa fare tutta una causa, avere quindi un provvedimento che poi non viene impugnato dalla banca e quindi sostenere i costi e le lungaggini di una causa per poi accedere non si sa fra quanto tempo ad un ipotetico ristoro. Mi è stato però detto che stanno lavorando e stanno cercando di prevedere degli stanziamenti ben più consistenti, e anche per quanto riguarda questo requisito della sentenza passata in giudicato pare che debba essere sostituito con un accertamento di questa attività di mis-selling, quindi di violazione delle regole di condotta informative, che dovrebbe avvenire anche in questo caso tramite l'arbitro ANAC. Quindi dovrebbe essere istituito un nuovo arbitro che permetta di accertare quando nella vendita di questi strumenti finanziari si sono violate le regole e in quel caso la possibilità di ottenere un risarcimento. E qui dovrebbe essere la stessa cosa anche per gli azionisti delle banche venete, dovrebbe essere un fondo a disposizione sia dei risparmiatori delle quattro banche risolte sia delle due venete. Ci sono, a suo avviso, avvocato Vescovini, sul territorio molti risparmiatori che sono rimasti coinvolti in questa situazione, che ancora non hanno fatto nulla, non hanno fatto, perché non avevano i requisiti per farlo, una richiesta di indennizzo al fondo interbancario, non si stanno attivando per capire se possono andare a chiedere un indennizzo all'autorità anticorruzione o se potranno in futuro magari ipotizzare di chiedere un ristoro grazie alla costituzione di questo fondo da 50 milioni? Ma allora, ci sono tutti gli obbligazionisti che hanno comprato subordinate non direttamente dalle banche risolte o dalle venete. Questi, quindi da altri intermediari. Esatto. Da altri intermediari non hanno avuto nessuna possibilità di ottenere un ristoro e si stanno muovendo cercando innanzitutto, quello che consiglio io, di valutare se l'intermediario che ha venduto loro questo titolo ha rispettato le solite regole di condotta, e proprio perché trattandosi di prodotti comunque complessi o in alcuni casi anche liquidi, i doveri informativi sono molto penetranti, quindi non necessariamente anche la vendita online esclude delle tutele. È necessario verificare la effettiva modalità con la quale si è conclusa la negoziazione, perché spesso in questi passaggi sono sfuggite delle regole che dovevano essere rispettate. Sulla base di queste è possibile ottenere dall'intermediario un rimborso. Questa procedura può essere anche svolta davanti all'ACF, l'arbitro per le controversie finanziarie, che sta lavorando, mi risulta, molto bene, e questo sembra proprio un paradosso a fronte invece delle contestazioni che vengono rivolte all'operato del presidente della Consob Vegas, vero? Assolutamente, avvocato Vescovini. Sì, sono pronunce che sono molto interessanti, molto belle, si sta creando un'ottima giurisprudenza a tutela dei risparmiatori, si dà molta importanza alla conoscenza effettiva del prodotto che il risparmiatore stava acquistando, degli oneri informativi che la banca doveva assolvere, quindi finalmente si vede una concretezza nelle decisioni, che tante volte non sempre è presente nelle decisioni dei tribunali. Ecco, abbiamo anche qui un paradosso dove abbiamo la Cassazione che è molto tutelante dei risparmiatori e dà importanza a questa conoscenza effettiva di quanto sta accadendo, ma purtroppo il tribunale di primo grado tante volte ancora si fermano alle formalità. Breaking news. Una notizia arrivata prima dai media spagnoli e confermata dalla polizia italiana: sarebbe stato arrestato in Spagna il killer di Budrio, Igor il Russo, sarebbe stato fermato dopo un conflitto a fuoco. L'uomo imprendibile che aveva ucciso il barista di Budrio Davide Fabbri, la guardia ecologica volontaria Valerio Verri, è sospettato anche dell'uccisione di un metronotte, sarebbe stato arrestato durante una sparatoria con la guardia civile nella quale ci sarebbero state tre vittime. Queste le notizie al momento, prossimi aggiornamenti nel GR delle 12. E meno male, insomma, questa notizia ci fa molto piacere, vedremo se avremo ulteriori novità a breve. Intanto avevamo anche un ascoltatore pronto ad intervenire su questo argomento, Roberto da Bologna, se ce la fa telegrafico la ringrazio, perché poi devo andare all'altro ospite che pure dovrà essere telegrafico, ma ci teniamo molto a sentire la sua storia. Roberto? Dica. No, dica lei. Allora, io volevo sapere dall'avvocato se le persone che hanno subito, cioè hanno ripreso il ristoro dei propri soldi, hanno avuto un bonifico o ulteriori obbligazioni con una scadenza ulteriormente avanzata. Ma ci mancherebbe, ma se l'indennizzo passa dal fondo interbancario di tutela dei depositi, ci manca pure che avvenga attraverso altre obbligazioni. Avvocato Vescovini. No, confermo che i pagamenti sono avvenuti con bonifici. probabilmente l'ascoltatore fa riferimento alla procedura che delle venete. È stata posta in essere da MPS, che ha convertito le obbligazioni subordinate in azioni che poi verranno sono state convertite per un solo dei prezzi obbligazionari in titoli che hanno scadenza l'anno prossimo. Chiarissimo. Domenico Panette, fondatore di Angeli della Finanza. Buongiorno Domenico, benvenuto e grazie. Allora, buongiorno ieri sui nostri social network, quando ha visto che noi oggi avremmo parlato di questo argomento, che in qualche maniera ci porta anche a parlare del tema della migrazione, di tutta l'attività bancaria dei clienti, degli ex clienti Popolare di Vicenza e Veneto Banca, appunto la migrazione che hanno dovuto, tra virgolette, subire, sostenere appunto per passare, per diventare clienti di Intesa San Paolo, che ha comprato, acquisito queste due banche in giugno, si è subito attivato per farci, per renderci appunto, per renderci consapevoli di quello che sta accadendo a tutti i clienti che appunto hanno dovuto gestire questa migrazione. Panetta, ci racconta che cosa sta succedendo. Lei è un commerciante, se non sbaglio, oltre che essere fondatore di questa organizzazione, che è un'associazione di volontariato. Esatto, un'associazione di volontariato, la nostra, che aiuta imprese e famiglie che sono in difficoltà appunto nei confronti delle banche finanziarie. Ieri cosa è successo? È successa una cosa molto molto singolare. Come ha detto lei, c'è stata questa migrazione da Veneto Banca a Intesa San Paolo, e però questi signori delle banche cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di non aggiornare i sistemi, quindi persone, sia io e sia tanti utenti che hanno scritto in associazione, si sono trovati con dei soldi che sono passati tramite POS non accreditati sul conto corrente. Ora, è un po' come se i sistemi informatici delle due ex banche ancora non si parlassero completamente con i nuovi della banca, e quindi qualche inceppamento era anche un pochino naturale aspettarselo, però certo che si tratta di un'attività commerciale, vi mette in ginocchio. No, guardi, io pongo due domande ai radioascoltatori e se c'è qualche dirigente di Intesa San Paolo. Io ho chiamato, non abbiamo fatto in tempo, ma magari vi rimettiamo insieme in un confronto, perché sono certa che loro verranno molto volentieri. Ma io me lo auguro, perché alla mia domanda, quando ieri io ho chiesto a Intesa San Paolo, ma carissimi signori, come me ci sono tanti commercianti, se oggi io avessi un assegno in scadenza, quindi a pagamento, okay, e facevo affidamento su quell'entrata di denaro tramite POS, cosa accadeva? La banca mi risponde: venivi prestato. Ma allora, magari Domenico, mi scusi, il tema è dunque che lei fa il commerciante, arrivo io come cliente, vengo a comprare un bene da lei, la pago con il POS e l'importo non le risulta ancora accreditato sui suoi conti del suo esercizio commerciale. Dunque il tema mi pare di capire che sia questo. Di conseguenza lei non ha visualizzazione della liquidità che ha sul conto e quindi non può utilizzare questo denaro per fare a sua volta le transazioni commerciali che le interessano. Ma come me tantissimi, come diceva lei prima, tantissimi clienti della ex Veneto Banca, l'attuale San Paolo, si trovano in questa situazione, certo. Sono tantissime le mail arrivate in associazione. Ora la mia domanda è: in una nazione seria, che dovrebbe essere seria, ok, dove le banche, dove qualcuno ci dice che le banche funzionano, il sistema funziona correttamente, sarà mai che un commerciante non ha né soldi e né merce? Magari non la vede ancora solamente Domenico, ci sono state le feste, ci sono state il 7 e l'8 dicembre. Comunque lei ci faccia sapere se questa situazione continua ancora a lungo, perché settimana prossima magari un confronto tra voi e la banca lo facciamo per capire se è proprio un problema informatico banalmente o c'è dell'altro. Però insomma, la migrazione è stata complicata, due banche diverse che siete tutti quanti confluiti in una grande, e chiaramente magari i sistemi informatici ovviamente erano un po' diversi. Panetta, posso fare una domanda all'avvocato, se è ancora in linea? Proviamo. Alla Vescovini? Sì. Sono, ci sono. Fate come se fosse a casa vostra. Buongiorno, è piacere. Che devo andare in borsa, veloci. Allora, io vorrei chiedere all'avvocato, qui si parla sempre, si parla di clienti e si parla di banche, ma non si parla mai di una persona che paga. Non si parla mai di una persona che paga. Qui sono stati manipolati dei MiFID. No, vabbè, Domenico, guardi, questo è un tema che veramente noi ormai fino allo sfinimento abbiamo trattato. Non ho il tempo di affrontarlo questa mattina. Sul fatto che non paghi nessuno è pacifico, basti vedere la figura che ha fatto Zonin l'altro giorno in commissione, dovrebbe essere il primo a pagare, invece sembrava completamente venuto da Marte, anche nelle considerazioni fatte davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche. Domenico, mi spiace, non ho tempo di trattare questo argomento, lo lasciamo ad altre trasmissioni. A noi interessa capire il retail, il piccolo risparmiatore, il piccolo correntista, che situazione vive in questo momento. Per tutte le polemiche di questo tipo ci sono altri programmi. Intanto io saluto Letizia Vescovini, che ringrazio di essere stata con noi. Domenico, lei ci faccia sapere se la situazione si sblocca per lei, i suoi colleghi commercianti. Al volo andiamo a raccontare cosa succede in borsa stamattina. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. vi presenta Due di denari. Per favore, cortesemente, io lo dico cortesemente, Può andare un passo dietro la linea gialla e non starci sopra? Non schiacciare lo schieno alla linea gialla? Perché la linea gialla soffre. Non le sto chiedendo chissà che cosa, voglio dire, inutile mi guarda con questi occhi da cernia. Forse perché mi vuole cernire il codice segreto. È per quello che va un passo avanti? Questo allunga questo collo a brontosauro perché mi vuole cernire il codice segreto? Salutiamo gli amici Aldo, Giovanni e Giacomo che sono venuti a trovarci tantissime volte, in particolar modo quando conducevo Cuore e Denari con Nicoletta Carboni, e noi utilizziamo sempre questa gag per il tema che vado ad affrontare adesso con il nostro esperto, con Nicola Forte, tributarista esperto del Sole 24 Ore per questioni fiscali, ma non solo. Nicola, ben ritrovato, buongiorno. Grazie Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Allora, abbiamo lasciato la prima parte di Due di Denari parlando delle difficoltà della migrazione, appunto, che si è perfezionata proprio negli ultimi giorni, dei clienti Veneto Banca e Popolare di Vicenza verso Intesa San Paolo. Naturalmente ancora qualche strascico problematico c'è, anche perché è stata un'operazione sicuramente imponente che ha obbligato al dialogo banche che probabilmente avevano un'operatività anche molto, molto diversa. Sul tema dei pagamenti, questa settimana registra una novità importante, perché nel nostro paese, su richiesta dell'Unione Europea, è stato deciso di ridurre le commissioni interbancarie sui pagamenti elettronici come bancomat e carte di credito. È stato varato il provvedimento del Consiglio dei Ministri su questo punto, anche se in realtà manca ancora qualche pezzo affinché venga stimolato davvero molto di più l'uso di carte bancomat nel nostro paese, sia da parte del cliente che da parte degli esercenti, ancora molti dei quali appunto non accettano di buon grado che il cliente estragga la moneta elettronica appunto per pagare gli acquisti. Il tema caldo peraltro delle sanzioni per gli esercizi commerciali che rifiutano il pagamento tramite POS non è stato ancora affrontato. L'attuazione sarebbe arenata, lo scriveva anche il Sole 24 Ore in questi giorni, al Ministero dell'Economia. Dunque rimane un obbligo quello del di accettare il pagamento con carta elettronica, appunto un obbligo senza sanzioni, un obbligo disapplicato, ma intanto, come dicevamo, il decreto legislativo dà un taglio sostanziale alle commissioni interbancarie. Nicola, ci puoi tradurre per i comuni mortali il senso di questa novità? Noi in questa maniera ottemperiamo anche ad una richiesta europea, c'è una direttiva sui sistemi di pagamento che deve essere ancora del tutto disciplinata e recepita appunto dall'Italia. Questo però è un passaggio importante, anche se ancora noi come clienti e utilizzatori della carta di credito non ne vediamo i benefici, perché noi ancora non risparmiamo, o quantomeno non risparmiano sicuramente i commercianti che hanno degli oneri abbastanza considerevoli mettendo a disposizione il POS dei clienti. Nicola. Giusto, corretto Deborah, nel senso che il taglio delle commissioni non riguarda per ora i commercianti, salvo che non ci sia in seguito un beneficio indiretto. Sono tagliate le cosiddette commissioni interbancarie, quindi c'è un taglio ai costi che sopportano le banche. Faccio un esempio: se io sono un commerciante, ho un conto corrente presso una determinata banca, la banca X, si presenta appunto un acquirente, utilizza appunto una carta di debito, un bancomat, è riferibile evidentemente a un altro conto corrente presso un'altra banca, ovviamente la transazione è autorizzata, ma una banca debita all'altra un costo che sono le cosiddette commissioni interbancarie. Ovvio, se questa riduzione dei costi delle banche poi in futuro dovesse tradursi anche in una riduzione dei costi che sono ribaltati sui commercianti, indubbiamente il beneficio ci sarà, però per ora è circoscritto appunto agli istituti di credito. Di che tipo di costi stiamo parlando? Esiste una quantificazione di queste percentuali? A quanto ammonta una commissione interbancaria? Allora, per capire anche se è possibile che questa novità si riverberi anche nel rapporto fra commerciante e cliente. Certo. Certo, abbiamo la riduzione per quanto riguarda le carte di debito, quindi bancomat, le carte prepagate, passiamo da una media dello 0,50 ad un tetto dello 0,20, per quanto riguarda le carte di credito passiamo da uno 0,70 a un massimale 0,30, quindi sono effettivamente riduzioni più del 50%, però poi ripeto dovremo in concreto verificare i benefici, gli effetti a cascata, in che misura ci saranno sui commercianti. Certo, e questa è una novità che comunque nel nostro ordinamento è già arrivata. Detto ciò, invece, l'altra parte molto importante, della quale parliamo da un po', ma ogni tanto sparisce anche dalla cronaca dei giornali, non sappiamo che fine abbia fatto, il tema dell'obbligatorietà per un commerciante o per un professionista di dotarsi di POS che consenta ad un cliente che si avvale o di un servizio o di una prestazione professionale, appunto, di utilizzare la moneta elettronica, quindi carta o bancomat. C'è questo obbligo? Dov'è finito? L'obbligo c'è, ma è virtuale come qualsiasi obbligo. Se poi non sono previste le corrispondenti sanzioni, che adesso sembra debbano, possano tornare in pista perché siamo in attesa appunto di un decreto, come si diceva in premessa, e per ora se c'è un rifiuto da parte del commerciante di accettare appunto la cosiddetta moneta elettronica, non ci sono sanzioni corrispondenti. Ove questo decreto, anzi presumo che sia solo una questione di tempo, sarà varato, la sanzione dovrebbe ammontare a 30 euro per ogni transazione rifiutata. Poi il decreto in realtà dovrebbe anche definire più nei dettagli delle categorie o dei soggetti esclusi da quest'obbligo. Pensiamo per esempio alla categoria dei tabaccai, c'è la vendita delle marche, i benzinai, dove c'è il problema delle accise, o altre categorie che potrebbero essere escluse, ma qui dobbiamo necessariamente attendere. E insomma, siamo in attesa, noi aspettiamo fiduciosi. Intanto, chiaramente, rispetto a tutte queste novità sono arrivati molti commenti nei giorni scorsi dalle organizzazioni del commercio che vigilano attentamente sull'evoluzione appunto della normativa che riguarda direttamente Confcommercio. Sul tema della diffusione dei pagamenti elettronici lamenta nei giorni scorsi uscita questo comunicato stampa: luoghi comuni e facili strumentalizzazioni, dal momento che in Italia il numero dei POS installati è di oltre 2.200.000 rispetto al 1.500.000 in Francia e al 1.200.000 appunto in Germania. Confcommercio ha messo anche in guardia dalle sanzioni per i negozi che non lasciano i consumatori pagare con il POS. La via, dicono, non è certo quella di prevedere misure ingiuste penalizzanti. Sicuramente se si agisse in maniera un po' più incisiva sul tema dei costi, magari i commercianti potrebbero essere più incentivati a lasciare utilizzare il POS ai clienti. Un ultimo commento, Nicola Forte, riguarda invece quest'altra novità della quale si è parlato nei giorni scorsi, ma non so bene che fine abbia fatto: un emendamento alla manovra di bilancio che porta la firma dell'onorevole Titti Di Salvo e che sarebbe stato anche approvato alla Commissione Lavoro della Camera e adesso passerebbe a quella bilancio. La novità riguarderebbe l'obbligatorietà di pagare ogni tipo di stipendio non più in contanti ma solo con bonifico bancario o imposta. Certo, e questa era una novità in realtà che ancora non era entrata in vigore, indicata nell'ambito di un disegno di legge non approvato e quindi per ora a questo punto trasfusa con un emendamento, come dicevamo, alla legge di bilancio. In realtà per quale motivo nasce la norma? Per evitare che nella busta paga si indichi un importo maggiore e in realtà la retribuzione corrisposta sia inferiore. Però facciamo qualche precisazione. Ci sono delle eccezioni. L'obbligo di utilizzare strumenti in grado di assicurare la tracciabilità, bonifico bancario, altri strumenti di tipo elettronico, non riguarda i rapporti di collaborazione domestica. La colf, i badanti dei privati potranno ancora essere pagati in contanti. E ovviamente nel rispetto dei limiti dell'antiriciclaggio. Certo. Ricordo a tutti che abbiamo la soglia di 2.999 euro di cui abbiamo più volte parlato. Sì. Esattamente, Però quindi abbiamo delle eccezioni, quindi il tutto è circoscritto alle certo. imprese artigiani, commercianti e professionisti. Ma insomma anche qui è ancora tutto un work in progress del quale dovremo tornare a parlare quando avremo, come piace a Mauro Meazza, la norma definitiva, concreta, operativa, entrata a regime. Grazie a Nicola Forte per essere stato con noi. Noi adesso andiamo a sentire il traffico e poi vi racconteremo come si è concluso il No Cash Trip di quest'anno, cioè il viaggio in giro per l'Italia organizzato dall'associazione Cashless Way, che raduna un po' di volontari che sperimentano la vita senza contanti. Vi racconteremo che cosa è successo tra poco. Due di denari. Va bene, Marco me l'ha ritirata fuori, l'ho utilizzata un sacco di volte questa canzone a cuore denari e stamattina ci andava molto bene anche per l'ultimo tema del quale parliamo. Pochissimi minuti di tempo da passare in compagnia di Geronimo Emili, presidente di Cashless Way. Buongiorno Geronimo, ben ritrovato. Buongiorno Deborah, tutto bene? Ti leggo intanto qualche messaggio di qualche ascoltatore che in realtà commentava l'approfondimento che abbiamo fatto prima. Andrea da Modena chiede: esiste un importo minimo al di sotto del quale un esercente può rifiutarsi di accettare un pagamento elettronico? Sono obbligati sempre e comunque in via teorica sono obbligati ad utilizzare, a lasciarci pagare col bancomat sempre, in via pratica invece magari mettono questo limite di 20-30 euro. Un mese fa a Roma, ci racconta invece Elio da Bergamo, di fronte alla scuola superiore di polizia in un ristorante esibiva un bel cartello: non si accettano carte o bancomat. Sicuramente nel vostro viaggio, Geronimo, a mangiare da questo ristorante voi non ci potevate andare. No, ma guarda, questa cosa dei cartelli a me fa ridere. Mi ricordo sì, l'anno sai scorso. Sai quante li vedo ancora a Milano io, che mi sembra assurdo. Ma sì, ma guarda, l'anno scorso ne ho visto uno al museo di Castel Sant'Angelo a Roma, Dottone. Dottone, con scritto: non si accettano pagamenti con carta. Quindi evidentemente non era proprio temporaneo come cartello. Allora Geronimo, raccontaci il vostro viaggio senza contanti. È terminato da poco a Roma. Quanto è durato? Qual è lo spirito di questa vostra iniziativa che quest'anno ha raggiunto la quinta edizione, se non ricordo male? Avete fatto un po' diverse tappe. E un viaggio che è partito il 25 novembre al Salone dei Pagamenti a Milano. Si è concluso quando a Roma? Si è concluso il 1 dicembre a Roma, dove tra l'altro siamo stati accolti dentro Banca d'Italia, che in quei giorni stava organizzando un convegno molto importante insieme alla BCE proprio sui pagamenti elettronici. Tra l'altro quindi possono sembrare pochi giorni, dal 25 novembre al 1 dicembre, ma senza neanche un euro in contante in tasca non è stata proprio, penso, una passeggiata, è proprio il caso di dirlo. Il nostro format è sempre stato quello di una settimana, a parte l'anno scorso che abbiamo fatto di due, ma è stato un viaggio in Europa. Però possiamo dirci la verità, girare in Europa solo con carta è facile, il problema è farlo in Italia. Ecco. Quest'anno però abbiamo alzato l'asticella, oltre a lasciare a casa i contanti abbiamo lasciato a casa anche le carte, abbiamo pagato solamente con il telefono, quindi in modalità smartphone. In modalità smartphone, e quello è stato anche divertente perché in alcuni casi i commercianti erano abilitati ad accettare il pagamento con il telefono ma non lo sapevano, non sapevano usare il POS. Esatto, quindi lì abbiamo, come dire, registrato una serie di difficoltà che sono sia culturali ma anche proprio di formazione. Le banche forniscono i POS o le varie strutture ai commercianti, ma che sono ormai dei POS molto più intelligenti rispetto a quelli di prima, però loro non lo sanno, non li sanno usare, non sanno come maneggiarli. Siamo andati da Milano, siamo andati ad Aosta, perché ho visto che ad Aosta c'è il più basso numero di prelievi pro capite in Italia, cioè e quindi tu hai detto là tutti utilizzeranno la carta, il banco, esatto, ma senza alcun problema. Era così effettivamente? No, non assolutamente no. Proprio per niente. Lì abbiamo trovato siamo andati al famoso mercatino di Natale di Aosta a comprare un po' di cose, non è stato per niente facile. Facilissimo, paradosso, pagare un caffè di 1,20 euro al Gambrino sta Napoli col telefono, non hanno battuto ciglio. Incredibile. Quindi micropagamento al sud, dove c'è oggettivamente un'accettazione molto più bassa, invece siamo rimasti sorpresi. Insomma, quindi qualche avete anche abbattuto qualche pregiudizio che molto spesso abbiamo. Senti, invece raccontaci l'unica, quella che avete ribattezzato, l'unica pecca del viaggio, che è stato il pagamento dell'autostrada che vi ha obbligato ad attingere alla vostra scorta, comunque la vostra scorta di emergenza che avevate. Perché, Noi avevamo una cassaforte in macchina dove abbiamo messo una carta d'emergenza e 35 euro, non mi ricordo esattamente, in caso proprio di emergenza, e l'abbiamo subito dovuto aprire, perché in nessun casello autostradale d'Italia è possibile pagare contactless o con un altro sistema telefonico. Quindi o ti doti di Telepass o devi pagare con la carta. Con il telefono non è possibile, quindi già lì o rinunciavamo a viaggiare in autostrada, cosa che in una settimana è impossibile, oppure e abbiamo dovuto aprire la nostra cassaforte, certo, e utilizzare una carta. Ho 20 secondi di tempo, Geronimo. Per l'anno prossimo che cosa avete in mente di fare? Allungherete il periodo del viaggio o non ci avete ancora pensato? Ancora non ci abbiamo pensato, però dobbiamo aumentare ancora di più la sfida. Però voglio vedere se l'anno prossimo veramente il telefono prenderà piede, perché non c'è altra soluzione. Quello sarà il nostro strumento di pagamento in assoluto. Certo. Senti, ma per utilizzare il telefono o lo smartphone per fare questi pagamenti, il collegamento internet deve essere ottimale ovunque? No, non è necessario. Non è necessario. Possono fare... No. Anche se non c'è collegamento, si può fare un pagamento e poi c'è in differita successivamente, poi viene fatto il... Comunque non è necessario. Grazie. Perché è il POS che deve essere collegato. Esattamente. Grazie a Geronimo Emili, presidente di Cashless Way, che ha terminato da poco il No Cash Trip, il viaggio senza contante di quest'anno. E adesso vi lascio, perché Mauro me l'ha lasciata, la nostra bellissima rubrica del venerdì C'è Imposta per te. C'è imposta per te. Cara Debora, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è venerdì e quindi non può mancare la rubrica C'è imposta per te, soprattutto perché lunedì, ricordati, lunedì devi pagare l'IMU e la TASI, o la TASI, insomma, dipende da come è la tua situazione immobiliare. Ricordati di non trascurare le pertinenze. Ricordati che la prima pertinenza è scontata per quanto riguarda la tua prima casa, ma oltre invece è dovuta l'imposta, perché c'è sempre un'imposta per te. Se vuoi passare un sereno fine settimana e prepararti al versamento, cara Debora, ma anche tutti voi cari ascoltatori, io consiglio di andare sul sito www.ilsole24ore.com, perché lì trovate nella sezione norme e tributi il calcolatore per vedere esattamente quanto dovete pagare, se dovete pagare. E poi c'è anche un formato ebook per la nostra guida, il nostro focus che abbiamo fatto sull'IMU e la TASI. Avete dei dubbi? Potete consultare liberamente, religiosamente, ma direi anche gioiosamente, tutto questo, questa disponibilità di istruzioni che avete. Perché ricordatevi, entro lunedì c'è sicuramente un'imposta per voi. Dai, sbrigati a tornare, che questa scusa dell'intervento ai denti non regge più. Intanto saluto Giambattista da Brescia che ci scrive: buongiorno, dica il suo interlocutore, riferendosi a Geronimo Emili di prima, di andare in Sardegna senza neanche un euro, lo lasciano dormire fuori e muore di fame in 7 giorni. Ma insomma, speriamo di fare dei passi avanti. Grazie a tutti per essere stati con noi, Marco Lombardo per l'assistenza in redazione, ad Andrea Roccabella per l'assistenza tecnica. Torniamo lunedì, buon weekend a tutti.